con te di nuovo vivo, il senso della vita sei tu. Punto mio d'arrivo vivo, la musica mi canta dentro, il buio adesso più non c'è. Fra le tue braccia vivo.